Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Chi è che ha tanti soldi, Marco Bellinazzo, nel calcio oggi? Chi ha tanti soldi? C'è qualcuno che ha tanti soldi? Beh, qualcuno che ha tanti soldi da spendere. Non ha tanti soldi. Diciamo che dobbiamo guardare oltre i confine, in primo luogo. E poi, beh, come Laurenti dire, sa dei soldi da spendere, ha un tesoretto, ha speso qualcosa. Sì, ora l'ultima cifra è di circa 40 milioni, ogni tanto è un quasi ricco. Tesoretto cresce, si diminuisce, insomma, non so. Poi facciamo ancora il conto di chi ha tanti soldi da spendere. No, perché il 2014, saluto Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, ma è il volto che racconta agli italiani che cosa c'è nelle pieghe dell'economia, dei club calcistici. 2014 è un anno di quelli che contano, di quelli importanti. Sì, un anno di svolta, ci auguriamo. Ci siamo riempiti la bocca, il fair play finanziario, le sanzioni, adesso sarebbe una beffa, come dire, ritrovarsi tra qualche mese a raccontare di un Paris Saint-Germain che la fa franca, o di un City che passa indenne le forche caudine del giudizio dei giudici di Nyon, insomma. Non si accettano quote, però. Beh, sai, qualche mese fa ti avrei detto che il giudizio sarebbe stato sicuramente severo e inclemente. Ora, la forza politica di chi chiede clemenza nei confronti degli sceicchi che i soldi ce li hanno e che l'economia del calcio hanno fatto muovere in queste stagioni sta crescendo, questa influenza, e quindi magari le pene potrebbero essere più miti. Io mi auguro di no, ma sai come la politica anche nel calcio la fa da padrona, purtroppo. Sai a chi lo chiediamo? Lo chiediamo ad Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, uno di quelli, giusto Paolillo, che queste regole le ha scritte. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che cosa ci attende nel 2014? Una grande beffa, perché questo sarebbe, dopo anni in cui abbiamo parlato di fair play finanziario, di squadre che vengono estromesse dalle competizioni, oppure vedremo l'UEFA che tiene fermo il punto? Vedremo l'UEFA che tiene fermo il punto, con qualche piccolo distinguo che però non va a creare sanatorie per nessuno, e mi spiego meglio. Allora, fermo il punto sarà tenuto, perché le regole del financial fair play sono fermamente volute, sono ferre e continueranno ad essere implementate, tant'è vero che si cercherà di portare, di obbligare tutte le squadre a fare i bilanci seguendo la metodologia IAS. Sì, almeno a scriverli tutti uguali. Ecco, che vuol dire? Che non è facile tra nazione e nazione, perché poi noi parliamo di calciatori, di gol, di semifinali, di market pool. La verità è che sono, che sono tutte delle piccole o grandi imprese, società che stanno in paesi diversi. Così come non è obbligatorio per la Fiat, ad esempio, fare i bilanci come vengono fatti in qualche altra parte del mondo, non è da dare per scontato che lo sia per la Juventus e per il Real Madrid, per il Paris Saint-Germain. Esatto. Quindi il punto di partenza è quello. Il punto di partenza è quello, ma vuol dire anche un'altra cosa. Stiamo attenti, e gli analisti finanziari questo lo capiscono molto bene, perché è il loro pane. Vuol dire dare una valutazione ai contratti che generano ricavi fatti con controparti che hanno un legame con la proprietà, con la società, diverso dal valore effettivo che può avere un contratto fatto a una controparte esterna. Caro Marco Bellinazzo, ti viene in mente qualche esempio? Aspetta, pensaci bene, perché ti viene in mente qualche esempio? Beh, me ne verrebbero due. Si sta impegnando. Me ne verrebbero due, tre o quattro, ma portano più o meno tutte quante a Parigi. Sì, quindi uno è il Paris Saint-Germain e il suo meraviglioso contratto da 200 milioni di euro con l'ente del turismo del Qatar, ad esempio. Per un altro andiamo a Manchester Sponda City, per esempio. Poi sarebbe bello capire come si reggono tutte quelle squadre che nell'est europeo hanno speso tanto in questi anni, soprattutto grazie alle TPO, ai fondi di investimento, quindi a queste triangolazioni, in particolare con il Brasile. Questo sarebbe un altro tema da aprire. Fermiamoci all'ente del turismo del Qatar. Allora, prendiamo due esempi, tanto per farci capire da tutti. Manchester City ha lo stadio che ha il naming, ha il brand Etihad, che è del proprietario della squadra. Qui la soluzione è leggermente più facile, perché sempre seguendo la metodologia IAS devo vedere se questo valore è congruo o meno, e lì è molto semplice, il valore del contratto è congruo o meno, è molto semplice, perché si prendono dei contratti analoghi sul mercato, si fanno i raffronti e tutto ciò che è in eccesso non viene tenuto valido. Quindi se il Bayern Monaco prende dall'Allianz, adesso mi sfugge quanto prende, difficilmente il Manchester City potrà prendere il doppio, il triplo, tutto quello che viene dichiarato in più, in qualche modo può non essere conteggiato, almeno a livello di fair play. Ad esempio, Emirates Stadium con Etihad sono due compagnie aeree, e quindi è molto più semplice. Sì, è tutto molto più semplice. Diventa un po' più complicato quando è uno stato intero, come nel caso dell'Inter del Turismo del Qatar, che vuole sponsorizzare una squadra che, guarda caso, poi appartiene. Cosa vale il brand dello stadio? E si è ammesso questo. Però, ripeto, una via sarà trovata, perché l'UEFA non ha nessuna intenzione, sono sicuro di quello che le dico, di perdere la faccia facendo vedere chi crea degli scappatoi. Sì, risulta che il Paris Saint-Germain sia già stato chiamato a dare spiegazioni. Mi pare di capire che non abbiano convinto Paolillo. No, da quello che risulta, appunto, queste spiegazioni non hanno convinto. Però volevo dire una cosa. Allora, se tutto un movimento di squadre che competono, ovviamente, col Manchester City, col Paris Saint-Germain, che giustamente premono loro stessi sull'UEFA, perché vengono scritte delle regole chiarissime e non vi siano eccezioni, perché sennò la competizione non è alla pari. A fianco a questo però vi è un numero significativo anche di squadre che fa un altro ragionamento, non chiede delle deroghe, però si rende conto che con queste regole ferree gli investitori possono non arrivare nel mondo del calcio, perché investire con le regole così ferme vorrebbe dire non competere, e chi entra nel mondo del calcio, come chi è entrato nel Paris Saint-Germain o nel Manchester City, entra per vincere alla grande. Cioè, per intenderci, Altani mai sarebbe entrato nel Paris Saint-Germain senza la certezza di poter fare sviluppare un progetto. È un po' data fazzi da un certo punto di vista quello che sta facendo l'UEFA, che di fatto, se applicasse in maniera rigida le sue regole, finirebbe per chiudersi a investitori esterni. Credo che non lo faccia nessun sistema economico, però qui l'esperto sei tu a capire qual è il punto d'equilibrio. Sì, beh, è chiaro che c'è in questo momento, come dicevo, una forbice che si sta prendendo nelle valutazioni della UEFA, e il dottor Paolillo sicuramente è testimone di quello che sta accadendo. Sì, diciamo la verità, qualcuno sta cambiando idea, questo è per tradurlo in italiano corrente. Arrivano da lì i soldi, gli unici soldi che hanno fatto muovere il mercato, e quindi rinunciarci a priori o con regole troppo ferre sembra appunto un atto di autolesionismo che è meglio non fare. Però, per esempio, la spiegazione che hanno fornito i dirigenti del Paris Saint-Germain a proposito della sponsorizzazione del QTA al Paris Saint-Germain è che quella non sarebbe una sponsorizzazione come le altre, qui mi riallaccio a quello che diceva giustamente il dottor Paolillo, ma sarebbe qualcosa di diverso ed inedito, cioè una sorta di contratto in cui si sfrutta l'immagine del Paris Saint-Germain per promuovere un paese intero, il turismo per un paese intero, i mondiali di calcio, e quindi il valore di quella sponsorizzazione è difficile da calcolare, difficile milioni, da contestare, esattamente, soprattutto. Esattamente. Detto questo, e poi abbiamo il traffico, caro Paolillo, io faccio fatica a scommettere che ad aprile, a maggio, quando si tratterà di cominciare a tirare la riga e decidere chi deve essere punito, chi se la cava con una multa e chi invece ha i bilanci in regola, io continuo a faticare a credere che l'UEFA metta fuori Manchester City e Paris Saint-Germain, che sono due società che certamente difficilmente possono dimostrare di essere dentro i paletti, i parametri del fair play. Prima io non ci credo. Fuori, ci sono altri livelli di sanzioni, altri livelli sanzionatori, fanno impedire un certo tipo di mercato, l'utilizzo di certi giocatori comprati ed altre forme di penalizzazione che sono il cartellino giallo molto forte, che è molto, molto deciso, che viene dato prima del cartellino rosso. Quindi sono altre le forme di decisioni che nel frattempo possono essere prese. Sì, ci sarà una moral suasion un po' più forte di quella che c'è stata in questi anni, perché si è arrivato il momento in cui gli strumenti ci sono. Io devo chiedere a lei, a Marco Belinazzo, un minuto di pazienza, c'è il traffico. Jim Pallotta from Boston. Do you intend to spend the entire game on the sideline? Non c'è una domanda sui cinesi, sullo stadio? Perché così il mio presidente è qui, è il vostro interlocutore. Meraviglioso duetto. Grazie, tra Rudy Garcia e Pallotta. Caro Marco Belinazzo, fammi la pagella degli stranieri in Italia. Pallotta, che voto gli diamo? Beh, direi un 6 meno. 6 meno. Beh, ma la Roma sta lì sopra. Adesso, quando riprendiamo il campionato, si gioca la sfida scudetto a Torino. Perché io faccio una valutazione sui 2 anni, qualcosa in più, della gestione americana, e ha, diciamo, deluso forse le attese di chi si aspettava un'avventura appunto in stile Paris Saint-Germain, o in sito addirittura un'avventura in stile Chelsea, no? Per ricordare i tempi d'oro di Abramovic. Invece si è partiti un po' a rilento, le stagioni sportive che sono appena passate non sono state così positive. Non benissimo neanche per il bilancio, proprio in termini economici. Dammi la pagella del primo trimestre invece di Toir. Primo trimestre ci fermiamo qui, perché è arrivato ieri con decorrenza domani. Domani è il mercato che inizia veramente fra 4 giorni. Diciamo, che pagella gli diamo? Con un 6 di incoraggiamento, perché le premesse, diciamo, anche rispetto al cambio di passo in società ancora non si sono viste, e quindi aspettiamo evoluzioni. Quindi è un 6 che guarda al futuro con un po' di speranza, insomma, per il club. Paolillo, le italiane come sono messe col fair play? Ma le italiane sono messe così così, gli diamo 6, nel senso che ovviamente molte, per rispettare totalmente il financial fair play, hanno sacrificato molto della loro competitività, e ci vorrà molto molto tempo prima che le riacquistino. E devono trovare il coraggio per riacquistarla, di investire molto nel settore giovanile, soprattutto di sfruttare il settore giovanile, altrimenti, se sperano di poterlo fare senza fare acquisti importanti, è impossibile. Qualche altra sta spendendo un po' troppo e magari dovrà fare questi sacrifici nell'immediato futuro. Comunque il panorama italiano lo vedo molto male. Sì, non c'è dubbio, e anche tutto il dibattito che si è aperto ancora in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni, sulla questione della legge sull'impiantistica non promette nulla di buono, non lascia intendere nulla di buono. Ma verranno chiamate dall'UEFA, fanno parte di quella lista di club che devono andare a giustificare a vario titolo i propri bilanci. Probabilmente non abbiamo posizioni simili a quelle del Paris Saint-Germain, del Manchester City, anche se è tutta da verificare eventualmente la posizione dell'Inter, che ha dei bilanci disastrati anche in queste ultime 2 o 3 stagioni. Com'è il rapporto con l'UEFA e con questo board che controlla? Vengono assolutamente tutte chiamate quelle che hanno delle perdite superiori ai 15 milioni di euro l'anno, quelle che non dimostrano di avere un budget sostenibile, un piano di rientro sostenibile. Queste saranno chiamate, e ovviamente alla scadenza del terzo anno, perché non dimentichiamo che le sanzioni grosse arrivano dopo 3 anni di bilanci fuori da quel plafond che è stato messo di media di 15 milioni l'anno, saranno sanzionate. Questo sarà inevitabile per le italiane come per le straniere. Ci aiuti a capire, Paolillo, ma in quello schieramento trasversale che si sta formando di favorevoli con riserva al fair play finanziario, c'è magari anche qualche italiana che ha interesse a vendersi o a vendere parte di se stessa all'estero, magari andando a cercare in Oriente, in Russia? Adesso non facciamo nomi, perché tanto poi si leggono ciclicamente. Ma basta guardare l'andamento economico del calcio, dell'industria calcio in quei paesi. Vediamo Spagna e Italia essere in testa a tutte nel cercare degli investitori esteri, questo è evidente. Attaccati a questi, in piccola parte c'è il Portogallo, ma qui il discorso è tutto diverso. Il Portogallo, perché è un paese appetibile, per l'altro discorso che faceva bene detto prima. Sì, che sono le TPO, cioè quei giocatori che vengono presi un po' in compropietà, parte da una società, parte dai fondi, quella roba che quest'estate in parte aveva interessato anche il Milan, con Galliani che si è portato in giro questo personaggio brasiliano, anche se in realtà in Italia è tutto vietato, almeno sì, carte alla mano. Però tra l'altro mi risulta che qualche fondo si stia costituendo appena oltre confine, con delle mire anche sull'Italia. Non ho ancora capito bene, è una questione che sto approfondendo, però insomma è chiaro che lo sviluppo finanziario del calcio potrebbe portare anche a questo, e meno risorse il calcio è capace di generare autonomamente, più deve attingere a risorse esterne. Quello che sta accadendo in Spagna, che è il paese ormai colonizzato dal TPO, il prossimo ad essere veramente oggetto di questa colonizzazione, è esemplare, perché soltanto Real Madrid e Barcellona si mangiano, diciamo, tre quarti della torta, e tutte le altre squadre purtroppo devono ricorrere ad altri mezzi per finanziarsi. Prima di salutarla, prego. In parole semplici, in parole brevi, è molto facile per la Spagna, che come regolamento ha che se arriva un giovane dall'Africa viene naturalizzato spagnolo, e il Portogallo, che se arriva un giovane dal Brasile viene naturalizzato portoghese, diventa facile cooperare i ragazzini attraverso un fondo a prezzi molto molto bassi da questi paesi e lanciarli in questi campionati e sul mercato europeo col passaporto europeo. Si paga 10.000 euro e magari si incassa 1 milione, 2 milioni di euro. Il giochetto sembra troppo semplice perché nessuno decide di intervenire. Sì, anche se abbiamo tollerato per anni fiscalità palesemente diverse, continuiamo probabilmente a farlo, ad esempio con il Monaco, ma qui si aprirebbe tutto un capitolo che in questo momento non abbiamo tempo purtroppo di approfondire. Ringrazio e saluto Ernesto. Grazie. Paolillo, con una battuta finale, ma il 2014 da titolo lo possiamo quindi definire l'anno zero del calcio europeo, o è soltanto un pezzo di un processo che comunque durerà ancora a lungo, di una battaglia anche politica di Platini con l'UEFA, la FIFA, con mezzo mondo? È soltanto un pezzo del processo. Quindi ci siamo illusi pensando che fosse l'anno zero. Grazie Paolillo. Prego, arrivederci. Grazie ad Ernesto Paolillo. Io saluto intanto, ci ha raggiunto Alessandro Oliva, collega che ha scritto I nuovi padroni del calcio, ovvero come gas e petrolio, oligarchi e sceicchi controllano il gioco più bello del calcio, le sue economie e le sue finanze. Ciao. Perché? Ciao Alessandro. Sì. Perché in parte lo abbiamo già raccontato citando anche degli esempi, sono gli sceicchi, sono i russi che si stanno impadronendo di alcuni dei club più importanti d'Europa, però a mettere insieme tutti questi tasselli emerge un vero e proprio risico di nuovi ricchi che si sta muovendo sul palcoscenico del calcio europeo. Io non so se questo sia un bene o un male, però sta avvenendo. Sì, sta avvenendo, e in effetti sì, è difficile dire se sia un bene o male. È chiaro che se facciamo un ragionamento riferito alla nostra economia e al nostro sistema, è un male perché evidentemente noi non siamo in grado di produrre altrettanto. Ecco. Però in linea generale, Marco, potrebbe essere forse l'unica via attraverso cui il calcio europeo si salva, perché poi questi sono investimenti da miliardi di euro che stanno sostenendo un po' tutto il settore, ma non solo in Italia. Abbiamo fatto i conti nei mesi scorsi di quanto il Paris Saint-Germain ha versato alle società italiane, salvando anche molti bilanci. Sì, sì, io tra l'altro ho letto il libro che ha scritto. Altro che razzie di mercato. No, è molto, molto interessante, soprattutto diciamo da una ricostruzione aggiornata di quella che è l'evoluzione, no? di un mercato, quello del calcio, che è sempre più incardinato nel processo economico e nei processi economici che portano certi paesi a volersi affermare in Europa e, come dire, a legittimarsi in Europa. Il punto è appunto riuscire a capire quanto il calcio poi potrà conservare la sua autonomia di industria anche, e quanto invece non si pieghi a logiche che con lo sport hanno poco a che fare. Io non professo, non difendo una visione romantica dello sport, non ce la raccontiamo. No, è un'industria, qui. È un'economia, deve fare business, chiaro, però possibilmente. Lo deve fare con le proprie logiche e le proprie finalità. Se il calcio diventa lo strumento per gli sceicchi per affermarsi in Europa, o per esempio, visto che tu i nomi non li hai fatti, provo a farli io, per Al Jazeera, per entrare nel mercato televisivo italiano, che è l'ipotesi di cui si parla tantissimo, chiaro che il Milan e lo sviluppo sportivo industriale del Milan diventano qualche altra cosa, e questo non è un bene. Se invece significa per il Milan recuperare risorse e poter tornare a competere con i grandi club d'Europa è un bene. Chiaro che soltanto poi la storia potrà dirci in che senso andrà questa evoluzione. Per chi, caro Alessandro, in Italia continua a sognare lo sceicco ed è deluso perché Toir mette pochi soldi, perché Pallotta in fondo è soltanto il gestore di un fondo, c'è la storia di Altani, ma non Altani adesso al Paris Saint-Germain, no, ma Altani al Malaga, che mi ha incuriosito. Sì. Io non so se la conoscono molti. Altani, prima di approdare a Parigi, aveva investito nel Malaga e poi se n'è andato perché più o meno come un lotito qualsiasi non gli consentivano di costruire complesso residenziale, commerciale, cioè più o meno quello che sta accadendo oggi e forse accadrà anche in futuro ai presidenti italiani. Attenzione quindi. Esatto, bisogna stare attenti perché come dire, ci sono molti investitori che arrivano convinti di poter speculare e magari non gli viene concesso e rischiano poi di lasciare una squadra, non dico in braghe di tela, ma quasi, perché il Malaga è passato da aver fatto la Champions, lo ricordiamo l'anno scorso contro il Milan, a quest'anno che invece si deve un po' barcamenare ed è stato anche costretto poi a vendere il suo gioiellino che è Isco. Questo per dire, caro Marco Bellinazzo, che quello che interessa non è la passione sportiva, magari può essere il calcio come biglietto da visita per poter entrare anche in altri ambienti che altrimenti ti sarebbero preclusi, penso ad Abramovic ad esempio a Londra con la City, però fondamentalmente è un veicolo di business. Beh, di interesse. Guarda, è quello che è sempre successo poi in piccolo, no? Se pensiamo ai capitani d'industria che in Italia compravano anche la squadretta locale sul territorio per restituire qualcosa al territorio, ma sicuramente per essere al centro, sì, per aprirsi certe porte degli che affari, altrimenti sarebbe, no, stato più complicato. Territoriale è sempre accaduto. Però la storia di Altani a Malaga dobbiamo tenerla ben presente noi italiani che stiamo ancora discutendo su come si fanno gli stadi, se si faranno in futuro. Esattamente, potrebbe essere la storia di Pallotta a Roma. Magari i tifosi giallorossi non lo vorrebbero, ma magari andrà a finire così, ci auguriamo di no. Però ecco, attenzione, non sempre i soldi stranieri sono garanzia di successo, dipende da come vengono amministrati. In questo senso poi le tifoserie possono fare un controllo attivo e un controllo speriamo non troppo attivo, ma ecco, qui entriamo in un altro discorso. Grazie Marco Bellinazzo. Grazie Giovanni. Ciao Marco. Alessandro Riva resta con noi, ci vediamo fra un paio di minuti. Abbiamo visto sottile filo, sottile nemmeno troppo, che lega il calcio ai nuovi padroni dell'economia e della finanza anche in altri campi, non solo in quello del pallone. Alessandro Oliva, autore dei nuovi padroni del calcio, mi interessa molto capire che cosa c'entra Gazprom con il nuovo calcio europeo, perché mi sembra, anche leggendoti, che abbia un peso preponderante, soprattutto negli ultimi anni. Sì, assolutamente. Gazprom ha bisogno di portare gas verso l'Europa, ha bisogno di installare i gasdotti soprattutto nell'est europeo, per portarlo anche a casa nostra. E quindi che cosa fa? Per convincere i paesi a entrare con i gasdotti, versa soldi nel mondo del calcio. Basti pensare alla Bulgaria, nel caso del Levski Sofia, che dall'anno scorso è targato Gazprom, e basti pensare anche alla Stella Rossa, anch'essa targata Gazprom dalla fine della scorsa stagione. Quindi usano il calcio come una sorta di biglietto da visita per aprirsi le porte, esatto, per investimenti più importanti. Sono anche partner di UEFA e FIFA. Sì. Si stanno estendendo nel mondo del calcio. Sì, assolutamente, si stanno estendendo. Non è un caso che Gazprom sia entrata anche nel bouquet di partner di sponsor per quanto riguarda i prossimi mondiali di calcio dopo il Brasile, quelli del 2018. Sì, quelli di cui parleremo. In Italia investono o no? Non ancora perché... Ma perché non siamo attrattivi o per quale motivo? Beh, francamente no, non siamo molto attrattivi al momento. Il calcio di oggi va dove ci sono i soldi. Una volta erano solamente i calciatori che andavano verso i contratti più ricchi, adesso è proprio tutto il sistema calcio, compresa la stessa UEFA, e lo si è visto con gli europei del 2012, che è andata quindi a organizzare un torneo in economie nuove e molto interessanti. Sì, esiste un conflitto di interessi. Gazprom, abbiamo visto, sponsorizza molte squadre, sì, è partner anche di squadre più importanti rispetto a quelle che abbiamo citato, mi viene, esatto, in mente ad esempio il Chelsea, è sponsor contemporaneamente dell'UEFA, della Champions, sì, League. Qualcuno ha sollevato il problema di un conflitto di interessi. Ma credo che non abbia senso al momento parlare di un conflitto di interessi che possa favorire le squadre sul campo. In realtà ha più senso parlare di un conflitto di interessi che può favorire i bilanci. Prendiamo il caso dello Zenit San Pietroburgo, che è sponsorizzato Gazprom e che lo scorso anno ha speso 80 milioni di euro per comprare Hulk e Fitzel. Se consideriamo il fair play finanziario, dove puoi spendere non più di quello che guadagni, l'hanno fatto senza problemi, quindi Gazprom interviene in questo senso a coprire i buchi. Sì, difficile però che l'UEFA tenga fuori un investitore, esatto, che sta entrando e che poi copre anche costi, e lo abbiamo detto, Gazprom è sponsor della Champions League. Da questo punto di vista è una zona, non so come definirla, una zona d'ombra, una zona grigia, qualcosa che forse in futuro andrà normato diversamente. Sì, diciamo, forse le regole esistono già. Le regole ci sono già. Se venissero applicate alla lettera, rischieremmo di avere una Champions più povera dal punto di vista del tecnico, dal punto di vista dei soldi e dei diritti TV. Quindi vedremo. L'Europeo 2012, in cui credo che Gazprom in parte sia entrata, o comunque sono entrate in maniera forte soldi pubblici oltre che soldi privati, non sono stati un grande successo dal punto di vista logistico, dell'organizzazione, credo anche del bilancio finale, bilancio intendo bilancio economico. Sì, soprattutto in Ucraina. In Polonia le cose sono andate abbastanza bene, non è un caso che anche un'altra grande realtà come Ansaldo abbia investito nelle infrastrutture polacche in vista degli europei. In Ucraina ci hanno pensato gli oligarchi russi a mettere i soldi, e nonostante questo, insomma, le cose non sono andate benissimo, ed è quello che poi succederà con i mondiali del 2018 con Gazprom. Ecco, come si stanno preparando questi mondiali? Siamo ancora lontani, perché sì, mancano 4 anni e mezzo, siamo alle prese, ne parleremo, con i problemi per logistici, per l'organizzazione di Brasile 2014, mancano 6 mesi e faremo un approfondimento nei prossimi giorni. Siamo alle prese con le polemiche per Sochi 2014, che è alle porte, mancano oramai poco meno di 2 mesi, 50 sì, giorni, 40 giorni, e anche lì ci sono grosse polemiche e grossi problemi. Credo uno scenario che ragionevolmente noi possiamo già proiettare anche sul mondiale del 2018. Sì, perché 4 anni e mezzo in realtà sembrano tanti, ma non così tanti, perché basti pensare che Standard & Poor's, che è una delle più grosse agenzie di rating al mondo, ha lo scorso anno stilato un rapporto che dice che la metà delle città che ospiteranno il mondiale in Russia, se continuano così, rischiano il crack finanziario, rischiano la bancarotta. Ed è qui che interviene Gazprom, che ha firmato un accordo con la FIFA di sponsorizzazione e interverrà a coprire economicamente i buchi e scongiurare questo crack. Mi sembra di capire che questi siano allarmi che non interessino la FIFA, l'UEFA, chi organizza queste grandi manifestazioni. Sono ritenuti danni collaterali, affari locali, non so neanche come definirli. Sì, loro li derubricano in questo modo, come problemi locali, che però insomma non ha senso star lì troppo a ragionare, un po' come succede in Brasile, no? Con le proteste. La FIFA però ha fatto spallucce, fondamentalmente. Sono problemi locali. Show must go on, lo spettacolo deve andare avanti comunque, deve andare comunque avanti, anche se poi, come è accaduto in queste settimane, si leggono notizie che portano, da un certo punto di vista, sempre seguendo il filo dei soldi, portano ad altri discorsi. Saluto Gianluca Ferraris, collega di Panorama. Ciao Gianluca. Buongiorno, buongiorno a voi. Autore di Singapore Connection, che è un titolo quanto mai azzeccato, uscito nelle settimane in cui il calcio scommesse ha scoperto il quarto filone dell'inchiesta di Cremona. Siamo tornati, mi pare di capire, faccendieri di casa nostra, però non bisogna mai dimenticare il legame con quella parte del mondo, con Singapore, con chi poi manovra davvero tutte queste vicende. Esattamente, lo ribadiscono peraltro anche i giudici di Cremona nell'ordinanza di custodia cautelare, ribadendo che c'è un link diretto e ancora esistente, anzi mai interrottosi, tra chi manovra i grandi capitali a Singapore e i faccendieri e gli intermediari più o meno noti alle cronache che agiscono qui in Italia. Come abbiamo visto, hanno agito indisturbati anche fino all'inizio di quest'anno nell'ipotesi dell'accusa. Sì, la cosa che a me lascia abbastanza perplesso, colpisce, di tutto quanto si è letto anche in queste settimane, è proprio il doppio livello, cioè questi personaggi alle volte assolutamente improponibili, che ci vengono raccontati dalle cronache e che sono quelli che poi anche in Italia, almeno secondo la ricostruzione dei magistrati, operano per truccare le carte, per truccare le partite. E poi questo livello di intoccabili, io so che tu sei anche stato a Singapore sulle tracce di alcuni di questi protagonisti del calcio scommesse mondiale, sono assolutamente inarrivabili. Esattamente, il problema principale di Singapore è che lo Stato non concede l'estradizione per i reati come la frode sportiva, quindi alcuni dei capi della gang che sono stati arrestati a settembre, ma fino ad allora avevano agito indisturbati, sono stati arrestati con accuse minori, diciamo, legate al calcio scommesse locale asiatico. E la bad news è che i magistrati di Cremona tuttora, nonostante le ripetute richieste di rogatoria e i 5 o 6 mandati di cattura internazionali, non riescono neppure ad accedere agli interrogatori di queste persone, quindi la collaborazione è davvero scarsissima. Quindi significa che se noi continuiamo a ragionare di queste inchieste, stando sul piano nazionale, pensando alle procure di Cremona, di Napoli, di Bari, altre che in questi anni si sono succedute in questa inchiesta, stiamo completamente sbagliando. Ma è anche la debolezza di tutto questo ragionamento? Sì. Abbiamo avuto la prova che sono cambiati gli intermediari, ma il flusso di scommesse clandestine e soprattutto di tentativi più o meno riusciti di truccare gli incontri non si è mai interrotto. Ad ogni raffica di arresti gli interlocutori internazionali cambiavano semplicemente intermediari. Per questo è difficile venire a un dunque se non si abbatte questa barriera con l'estero, che è quella poi verso la quale si muove il flusso sia delle decisioni che dei soldi. Di quanto stiamo parlando? Perché abbiamo fatto prima i conti in tasca al fair play finanziario, che da quest'anno, dal 2014, dovrà entrare nella sua fase operativa. Abbiamo fatto tutto un ragionamento seguendo il filo dei soldi, anche dei nuovi padroni del calcio, che sono poi padroni del gas, del petrolio, sono gli oligarchi, non soltanto gli sceicchi. Abbiamo raccontato di Gazprom. Se parliamo di scommesse, Gianluca, di che cosa stiamo parlando, almeno per ordine di grandezza? Certo, dunque le sole scommesse sul calcio a livello mondiale movimentano circa 460 miliardi di dollari l'anno. Miliardi di dollari. Esatto, qui stiamo parlando di interno lordo di un paio di nazioni. Sì, qui stiamo parlando di scommesse lecite, legali, quelle che possiamo tracciare e alla fine possiamo sommare. O c'è anche la stima delle... C'è anche la stima dell'illegale. Di questi 460 miliardi, la stima, che non è mia ma è dell'EFSA, che è l'organismo antifrode partecipato dall'UEFA e dalle società di betting legale, è che circa un quarto transitino per il canale illegale, quindi circa 120 miliardi. Di questi almeno 90 passano per Singapore. Quindi ecco, questo per avere un ordine di grandezza, per capire su che fortuna stanno seduti questi boss ancora inarrivabili per la nostra giustizia. Sì, questo per dire che se non si riesce a mettere le mani almeno su quelle carte, sarà difficile pensare anche in prospettiva di riuscire a sconfiggere questa piaga. Ho l'impressione che il mondo del calcio, non solo in Italia, sia obbligato ad abituarsi a dover convivere. Mi ha molto stupito anche, ad esempio, caro Gianluca, leggere di manovre per truccare i mondiali del 2014. Stiamo parlando quindi della manifestazione che ha il massimo dell'attenzione mediatica concentrata addosso. Noi ci dobbiamo però fermare, c'è il traffico, ripartiamo da qui, resta con noi, traffico. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Dimmi solo se sei più offeso o più arrabbiato. Tutte e due, Carlo, è una roba assurda, è una roba incredibile. Mi sento offeso e arrabbiato perché non so veramente di cosa vogliono da me. Io non so nemmeno come si fa a truccare una partita, ma veramente. Adesso vediamo oggi cosa esce fuori. Però vuoi uscire proprio che la tua carriera non sia neanche leggermente sfiorata? Ma ti sto dicendo, io non so nemmeno come si fa. Se tu mi dici come si fa a truccare una partita, io non lo so da dove cominciare. È questo che non riesco a capire. Comunque chiarirei tutto. Ci mancherebbe che chiarirei tutto. Noi ci scherziamo anche, eh? Questa canzone dice il lunedì è un giorno orribile, ma il martedì è anche peggio. Martedì 17 è stato il martedì nero, il giorno nero del calcio italiano, la vicenda del calcio scommesse, la sentenza d'appello di Calciopoli con la conferma delle condanne, soprattutto per Luciano Moggi, poi la notizia della chiusura delle curve di Inter a Roma per razzismo, poi c'è stata tutta la vicenda dei ricorsi. Mi chiedo, Alessandro Oliva, un investitore potenziale, ammesso che ce ne sia uno straniero che sfoglia i giornali italiani mercoledì 18, che idea si fa del calcio italiano? Forse l'idea giusta, di sicuro non gli viene tanta voglia di investire da noi. No, assolutamente, anche se credo che un investitore straniero voglia anche cercare di capire cosa faranno gli investitori attuali, cioè Toir e Pallotta. Sì, mi chiedo Toir, che ha passato quei giorni in giro per l'Italia in vacanza con la famiglia, che idea si è fatto del mondo dove è atterrato. Gianluca Ferraris, collega di Panorama, autore di Singapore Connection, che idea ti sei fatto di questo quarto filone, credo, dell'inchiesta di Cremona sul calcio scommesse? Ma rispetto alle precedenti ordinanze mi pare che si sia un po' fatto, perdonatemi il termine, un lavoro un po' eccessivo di deduzione e in alcuni casi anche di copia e incolla. Sì, c'è qualche condizionale precedenti. Di troppo. Sì. Mi pare che si voglia applicare lo stesso schema, per carità legittimamente, a contorni, a contesti che sono quantomeno differenti, se non in minor parte probanti. Mi riferisco soprattutto al caso Gattuso, che è secondo me è emblematico di come si possa montare un caso su un presunto coinvolgimento. Sì, mi sembra che il mondo del calcio da questo punto di vista si sia chiuso a riccio in difesa di Gattuso, ma in parte anche di se stesso. Io penso anche sbagliando, perché poi se mettiamo in fila i numeri di tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni e mezzo, negli ultimi 3 anni, non è vero che si è tutto risolto in una bolla di sapone. Cioè, questa è un'inchiesta che ha prodotto anche dei risultati dal punto di vista giudiziario. Assolutamente. Proviamo a ricordarli. Ci sono già delle confessioni, ci sono già dei patteggiamenti, soprattutto da parte di personaggi minori dal punto di vista della celebrità calcistica, ma più coinvolti, mi riferisco a Fantoni, a Pederzoli, a Gervasoni e altri, ma questa eccessiva ansia del salto di qualità e del voler sempre portare all'attenzione nomi più importanti, secondo me non fa il bene di questa indagine, che pure ha dei meriti. Una lettura approfondita delle carte dell'ordinanza, oggi come allora, secondo me getta più di un dubbio su alcune responsabilità. Detto questo, il quadro rimane inquietante, perché al di là dei profili penali, che naturalmente dovranno essere accertati, che ci fossero alcuni faccendieri, e oggi apprendiamo anche un ristoratore della Cenotafio milanese, con in agenda i numeri di mezza Serie A e libero accesso ai campi di allenamento, ti dà comunque l'idea di un humus non rassicurante per il nostro sistema calcio. Sì, mi dà l'idea di una promiscuità inaccettabile. Mi sembra, da questo punto di vista, che la risposta del mondo del calcio italiano non sia una risposta che fa sperare in meglio per il futuro. Va bene il garantismo, però non si riesce a mettere le barriere. Non è la prima volta, già il primo calcio scommesse, quello storico degli anni 80, in fondo si reggeva su due figure, due faccendieri che col calcio non avrebbero dovuto avere nulla che spartire. Mi sembra che lo schema si ripeta con sconsolante ripetitività. Assolutamente sì, la differenza è che allora parlavamo di pochi milioni di lire che viaggiavano nascosti nelle cassette della frutta e dell'incartamento del pesce, e oggi parliamo di miliardi di euro che si muovono veloci su bonifici cifrati. Per il resto lo schema è sempre lo stesso, e purtroppo è dello stesso tipo anche la reazione che si applica al mondo del calcio. Prima si cerca di parlare di mele marce, ricordiamo tutti all'inizio di questo scandalo la famosa frase di Abete, presidente, sui quattro sfigati che scommettevano. quando poi si arriva a delineare un quadro molto più inquietante e soprattutto molto, molto più vasto, si promettono riforme in primis della giustizia sportiva e poi anche di quella penale, che poi abbiamo visto non approdano a nessun dunque. La mia impressione è che anche questa volta si sia sbagliato un calcio di rigore, perché ci sono stati 2 anni a disposizione per riformare il sistema e ancora non è stato fatto praticamente nulla. Sì, tra l'altro la riforma della giustizia sportiva, che è notizia di una decina di giorni fa, alla fine ha visto proprio il mondo del calcio contrario, perché si sente messo come sotto tutela da questa super procura federale, ma io credo qui ci siano intrecci anche politici. Dicono i magistrati, anche l'ultimo campionato, stiamo parlando della Serie A, quindi non di serie minori, è stato in qualche modo manipolato o almeno è stato oggetto di attenzione di tutte queste organizzazioni. Ti chiedo se possiamo mettere una mano sul fuoco sul campionato che stiamo vivendo oggi, quello che il 5 gennaio ricomincerà con la sfida tra Juventus e Roma. A questo punto una mano sul fuoco non la si può mettere su nulla, credo, appunto proprio perché le carte dimostrano che i tentativi di influenzare le partite sono andati avanti nonostante gli arresti, nonostante le indagini, e soltanto con brevi pause. Volutamente, credo, l'ordinanza si ferma alla fine del campionato scorso, ma non c'è nulla che non ci possa far pensare che i contatti sono proseguiti da parte di questi personaggi fino all'altro ieri, insomma. Difficile mettere la mano sul fuoco, Alessandro Oliva, difficile anche andare a venderlo questo prodotto, che io ho letto qualche giorno fa un'intervista di Domenech, ex CT della Francia, che ha detto: chissà perché queste cose succedono in Italia, non ve le meritate, però oramai ci abbiamo fatto l'abitudine, ci stiamo appiccicando un'etichetta secondo me anche immeritata, poi ne parliamo, Gianluca, però difficile venderlo, Alessandro, questo prodotto in giro. Sì, assolutamente, è difficile venderlo. L'unica chiave al momento che vedo che può cambiare le cose è l'introduzione della legge sugli stadi di proprietà. Allora a quel punto si può tornare a invogliare, diciamo così, gli investitori a mettere di nuovo soldi nel nostro calcio. Sì, i soldi non puzzano, e quindi se gli dai la possibilità di fare business possono anche dimenticarsi gli scandali del nostro calcio. Non lo meritiamo solo noi però questa etichetta, perché in realtà prima del nostro scandalo era stata ad esempio l'Inghilterra quest'inverno a essere attraversata dal sospetto delle combine anche ad alto livello. Assolutamente, le indagini dell'Interpol dimostrano che la gang di Singapore ha potuto agire più o meno indisturbata, più o meno contrastata in una ventina di paesi e di campionati, comprese alcune competizioni internazionali, ivi inclusi i mondiali del 2006. Con una montagna simile di soldi a disposizione è possibile condizionare qualsiasi campionato e raggiungerlo. Poi certo, gli strumenti messi in campo e gli anticorpi sviluppati dai singoli sistemi calcio sono stati differenti. Non dimentichiamo che da noi c'è anche un elemento in più, se vogliamo, culturale, che è quello del biscottino di fine stagione. È un elemento che purtroppo fa parte della nostra cultura calcistica, che non si riesce a debellare. Sì, non solo della nostra, a me non piace quando ci facciamo male da soli come tafazzi, se ne parla anche in Spagna, ci sono esempi, caro Gianluca, il biscottone tra Danimarca e Svezia passerà alla storia, però certo che noi non ci facciamo mancare nulla, soprattutto nelle serie minori. Assolutamente, io quest'anno temo, e a questo proposito c'è anche un passaggio all'interno dell'ultima ordinanza di Cremona, che il fenomeno sia destinato ad esplodere con una Lega Pro senza retrocessioni, e quindi con molte meno squadre costrette a giocarsi qualcosa nelle ultime giornate. Questo è un fenomeno che per fortuna so da fonti attendibili, anche la Federcalcio e i monopoli di Stato che si occupano della vigilanza stanno seguendo con molta molta attenzione. Sì, perché la buona notizia è che tutto questo ha portato almeno alla creazione di una serie di software, di sistemi di controllo che aiutano a monitorare in tempo reale le scommesse. Per quello lo ripetiamo che si può monitorare di un sistema che non solo non è soltanto italiano, nemmeno europeo, ma porta spesso in luoghi che sono difficili da controllare. Abbiamo ancora un paio di minuti, li spendiamo per mettere una mano sul fuoco, almeno quello sul mondiale che vivremo tra giugno e luglio, almeno lì vedremo calcio vero senza tarocco. Sicuramente dagli ottavi in poi sì, l'esperienza purtroppo insegna che la lunga mano di Singapore è arrivata spesso anche nei gironi eliminatori dei mondiali, soprattutto nelle partite tra piccole e grandi squadre dove si verifica più di un over. Andando a vedere la composizione dei gironi e andando a vedere soprattutto come hanno agito in passato e come, lo dicono i giudici di Cremona e lo dice anche l'Interpol, stessero tentando di condizionare anche la prossima manifestazione, anche lì mi spiace ma non riesco ad allungarla questa mano sul fuoco, vorrei restare integro. Maneggiare con cura almeno fino all'ultima settimana di giugno, maneggiare anche il prodotto mondiale 2014. Abbiamo finito, io ringrazio Alessandro Oliva, i nuovi padroni del calcio, come gas, petrolio, oligarchi e sceicchi controllano l'economia e la finanza del gioco più bello del mondo, grazie Alessandro. Grazie a voi. E ringrazio e saluto anche Gianluca Ferraris che con Antonio Talia ha scritto Singapore Connection. Ciao Gianluca. Grazie a voi, a presto. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con tutti i convocati è per domani a partire dalle 14:05. Un saluto anche da Giovanni Capuano.